Mango Tart legge Mana Cold di Sending You. Capitolo 3. Il letto occupato da Anna era vuoto quando fu riportata nell'infermeria di Hogwarts. La guaritrice Stroud le versò una pozione in gola non appena la misero a letto e il dolore nella sua mente si attenuò leggermente. Sbatté le palpebre e le macchie nere danzanti che continuavano a oscurarle la vista cominciarono finalmente a svanire. Aveva la nausea. Sentiva lo stomaco ribollire e contorcersi come se avesse del veleno dentro che non poteva espellere. Tremava. Voleva girarsi e raggomitolarsi su se stessa, ma non riusciva a trovare le forze di farlo. «Proteggetela a costo delle vostre vite». Se qualcuno vuole toccarla o anche solo guardarla, avrà bisogno del mio permesso, sentì dire la guaritrice Stroud. Si voltò e riuscì vagamente a scorgere due grossi uomini in piedi dietro la Stroud, gli occhi freddi che la fissavano. La guaritrice lanciò su Hermione diversi incantesimi che si divisero, scintillando intorno al suo corpo. Dopo aver ispezionato le proiezioni per qualche minuto, la Stroud si voltò e si allontanò a grandi passi, con il mantello che le si gonfiava sulle spalle. Lei fissò il soffitto, cercando di assorbire tutto quello che le era successo quel giorno. Era sul punto di piangere, ma non riusciva ad evocare le lacrime. La rassegnazione e la disperazione si erano intrecciate con la sua anima dal momento in cui aveva visto morire Harry. Dopo aver visto la maggior parte delle persone che amava morire in agonia, sapeva che il suo turno di soffrire era vicino. Ed ora era definitivamente arrivato. La morte non l'aveva mai spaventata. La sua paura era sempre stato il modo in cui sarebbe morta. Aveva visto alcuni dei peggiori. La morte di Harry era stata pietosa in confronto alle torture a cui erano stati sottoposti Weasley, Remus e Tonks. Lucius Malfoy si trovava a pochi metri da dove Hermione era ingabbiata quando aveva guardato Ron e ringhiato «Questo è per mia moglie!». Poi gli aveva lanciato una maledizione che aveva trasformato gradualmente il sangue di Ron in piombo fuso. Aveva guardato come si insinuava lentamente nel suo corpo, distruggendolo dall'interno. Non aveva potuto fare niente, né risparmiargli la sofferenza in qualche modo. Arthur Weasley era rimasto permanentemente leso da una maledizione durante la guerra. Piangeva, senza nemmeno capire perché stesse soffrendo o che stesse morendo. Aveva lasciato Molly per ultima, così avrebbe visto morire tutti i suoi figli. Remus aveva resistito più ore di chiunque altro. La licantropia aveva continuato a guarirlo fino a quando non era rimasto appeso lì, senza più reagire. Alla fine qualcuno gli aveva lanciato l'anatema che uccide, per noia. Aveva rivisto quelle morti davanti agli occhi così tante volte che si poteva pensare che alla fine il dolore si sarebbe attenuato. Ma non era successo. Ogni volta erano altrettanto nitide, altrettanto fresche, una ferita che non sarebbe mai guarita. Il senso di colpa del sopravvissuto, pensò. Quello era il termine babbano per definirlo. Ma era una descrizione così misera. Non rendeva nemmeno una frazione dell'ampiezza dell'agonia nella sua anima. Essere messa incinta da un mangiamorte era un destino che non le era mai venuto in mente. Essere violentata, sì, aveva considerato quel rischio, ma quello sembrava uno stupro al rallentatore. Tuttavia la situazione era molto più complessa. Qualsiasi cosa avesse nascosto nella sua mente era importante, più importante per lei di qualsiasi altra cosa. Non poteva lasciare che cadesse nelle mani di Voldemort. Non aveva paura di veder marcire il suo cadavere nella sala grande. Quel destino non era niente in confronto alla rinuncia a ciò che stava proteggendo, o in confronto all'essere violentata e costretta a portare in grembo un bambino che le sarebbe stato strappato dalle braccia nel momento in cui fosse nato. Scappare, si rese conto, era probabilmente un lusso che non poteva permettersi di perseguire. L'importante sarebbe stato morire in fretta, prima che potesse essere fermata e trattenuta da ulteriori tentativi. Si sdraiò e iniziò a pensarci. I giorni passavano lentamente. Nessuno dei prigionieri portati in infermeria osava parlare con Hermione, con le guardie costantemente accanto al suo letto. I guaritori passavano più volte al giorno per valutarla e curarla. Le prelevarono fiale di sangue e un po' di capelli per le analisi. Un terapeuta cominciò a curarla per le torture, per i tremori. Alla fine la maggior parte degli spasmi cessò. Le dita tendevano ancora a contrarsi spasmodicamente ai suoni inaspettati. Non era più abituata al rumore. Ricordava che la sua vita fosse stata piena di rumori in passato, nelle aule, durante i pasti, nell'infermeria dopo le battaglie. Ora qualsiasi suono inaspettato la prendeva alla sprovvista. Lo sbattere di una porta o lo sferragliare degli stivali. Le onde sonore che ne derivavano erano come sensazioni fisiche sulla carne. Si contorse. Il nervoso guaritore della mente tornava spesso con la guaritrice Stroud per esaminare il suo cervello e le sue condizioni psicologiche. Era preoccupato per la sua stabilità generale. Le faceva incantesimi di simulazione sul cervello per vedere come avrebbe reagito alla folla, agli spazi stretti, al contatto fisico, al sangue. Se c'era il rischio che avesse un crollo mentale, volevano che lo facesse mentre era ancora in infermeria. A quanto pareva, nonostante gli spasmi, era abbastanza stabile. Quando i tremori più gravi della tortura cessarono, dopo 4 giorni di terapia, decisero che era pronta per l'addestramento. Il 5° giorno fu dimessa. Le guardie la portarono direttamente nella sala grande. C'erano file e file di sedie disposte di fronte alla parte anteriore della sala, occupate da donne vestite con abiti grigio scuro. L'Umbridge era in piedi sulla piattaforma di fronte e parlava con saccente allegria. Era vestita in una tenue tonalità di rosa, con un grande ciondolo appeso al collo. Aveva una mano pesantemente fasciata. «Siete state scelte per aiutare a costruire il futuro che il nostro Signore Oscuro ha immaginato. Vi è stato concesso il privilegio di portarlo avanti», disse e sorrise. «Voi siete le poche ritenute degne di farlo». Suonava meccanica e fissava le ragazze con occhi scintillanti di odio con un falso sorriso intonacato saldamente sul volto. Gli occhi che continuavano a sfarfallare verso un angolo della stanza. Hermione si voltò leggermente a guardare e vide 2 mangiamorte senza maschera in piedi, Corban Yaxley e Thorfinn Rowell. Stavano guardando la Umbridge con espressione di annoiato divertimento. «Il Signore Oscuro ha ordinato che veniate addestrate per adempiere i vostri doveri senza fallire. È un grande onore quello che vi ha concesso. Non vorrete deluderlo. Siete importanti per il Signore Oscuro. Per questo motivo dovete essere protette dagli altri oltre che da voi stesse». Il sorriso della Umbridge si affilò improvvisamente, mostrando un accenno malizioso. Fece un gesto verso il retro e Yaxley e Rowell si fecero avanti. La Umbridge si rivolse alle guardie allineate lungo il muro. «Schiacciatele tutte! Siate scrupolosi!» Alcune delle donne sedute cercarono di allontanarsi, ma la maggior parte si mosse a malapena quando le guardie iniziarono a colpire, accasciandosi sulle sedie o cadendo a terra. Hermione era in piedi, verso il fondo. Guardò le ragazze cadere. Ne riconobbe alcune. Anna Abbott, Cali Patil, Angelina Johnson, Katie Bell, Cho Chang e Romilda Vane. Alcune le sembravano poco più grandi o piccole di lei. Ce n'era anche qualcuna un po' più anziana, ma nessuna sembrava avere più di 30 anni. Erano quasi 100. La Umbridge la vide in piedi verso il fondo. «Schiantate anche lei», disse fissandola velenosa. Le guardie esitarono. La guaritrice Stroud apparve nella sua visione periferica. «Fatelo», disse con un forte cenno di approvazione. Fu messa al tappeto prima che potesse ribellarsi. «Reinerva». Hermione si alzò a sedere, stranita. Era stata spostata, sdraiata accanto al resto delle ragazze. Le avevano disposte in fila. Alcune erano ancora incoscienti e le guardie si muovevano lungo la fila per svegliarle. Altre erano sedute e si fissavano le manette intorno ai polsi. Hermione guardò le sue. I braccialetti magici sembravano diversi, un po' più larghi e ora senza alcun fermo. Solo un cerchio perfetto di rame che avvolgeva ogni polso. Sulla superficie brillante di entrambe le manette era inciso «Proprietà dell'Airiv». Di maggiore preoccupazione per Hermione era l'oggetto freddo sotto il metallo che poteva sentire premerle contro l'interno dei polsi, ma le manette erano così strette che non poteva sbirciare sotto per discernere cosa fosse. Era chiaro. La ragione per cui erano state schiantate era per rimuovere e sostituire le manette, presumibilmente con qualcosa di peggiore. L'orologio sul muro indicava che erano passate ore da quando avevano iniziato. Qualunque fosse stato il processo, c'era voluto del tempo. Un grande tavolo era apparso nella sala grande, ricoperto di armi. Non poteva essere una trappola più ovvia. Tutte stavano in piedi con cautela e si limitavano a fissarle. «Venite avanti», disse la Umbridge con voce suadente, facendo un cenno dal lato del tavolo. «Venite, venite a vedere!» Nessuna si mosse. La Umbridge sembrava delusa. Aveva chiaramente sperato che qualcuna sarebbe stata così sciocca da precipitarsi verso il tavolo e provare a prenderne una. «Tu, laggiù, vieni qui!» La Umbridge indicò una ragazza tra la folla. Ad Hermione sembrò di riconoscerla. Forse era del sesto anno. «Mafalda», pensò, «di Serpeverde». Lei obbedì lentamente, rabbrividendo per l'apprensione. «Prendi qualcosa», le ordinò. Mafalda si avvicinò lentamente, ma quando la sua mano arrivò a pochi centimetri da un coltello, la tirò via bruscamente con un grido. L'Umbridge sorrise in trionfo. «Tutte ora! Venite a provare! Vediamo cosa succede!» Tutte si mossero in avanti con riluttanza. Hermione si avvicinò con crescente timore, la mente che ipotizzava. Doveva esserci un incantesimo di barriera alle manette, qualcosa che impediva loro di avvicinarsi a certi oggetti. Allungò la mano da una distanza considerevole e si avvicinò lentamente. Quando le dita furono a 10 centimetri da un pugnale sul tavolo, una sensazione di bruciore iniziò ad avvolgerle. Tirò via la mano, amareggiata. Le sue opzioni, se avesse voluto ricorrere al suicidio, si erano improvvisamente, drammaticamente limitate. Passò in rassegna i vari oggetti. Balestre, coltelli, spade, asce, coltelli da cucina, tagliacarte, persino grandi chiodi d'acciaio. Sembravano aver incluso di tutto nell'incantesimo. Catalogò ogni oggetto con attenzione. Non poteva essere solo quello. L'inserimento di un incantesimo di barriera era troppo semplice. C'era qualcosa di più complesso nel nuovo set di manette. Abbassò lo sguardo, cominciando di nuovo ad agitarsi. «Queste nuove manette vi terranno al sicuro e faranno in modo che le famiglie a cui sarete inviate possano prendersi cura di voi. Il capofamiglia di ognuna vi farà un incantesimo che gli permetterà di trovarvi sempre e di sapere se siete in pericolo. Tata!» L'Umbridge sorrise dolcemente. «La natura pericolosa e labile comune tra i babbani vi impediranno di commettere atti di violenza su chiunque, comprese voi stesse, vi aiuteranno a obbedire incontrollabilmente al Signore Oscuro per la generosa opportunità che vi ha dato.» Diverse donne singhiozzarono in modo udibile. Sono maghi importanti quelli che servirete dopo tutto. Non vogliamo che qualche errore o incidente li disturbi. Un incantesimo di barriera. Forse qualche tipo di incantesimo di coercizione e, insieme a un incantesimo di controllo, che sicuramente era ciò che Hermione sentiva sotto le manette, una sorta di sensore che monitorava il suo stato fisico. Gli incantesimi di monitoraggio erano comunemente usati nei reparti di psichiatria degli ospedali per avvisare i guaritori quando i pazienti rischiavano di farsi male o di comportarsi male. Tracciavano la frequenza cardiaca e gli ormoni, picchi e sbalzi. Quelli più complessi tracciavano anche leggermente la coscienza. Non era esattamente una lettura della mente, ma dava un quadro dello stato e delle inclinazioni di chi lo indossava. Cercare di suicidarsi o fuggire senza alcun tipo di arma, intrappolata sotto una sorta di incantesimo di coercizione, senza avere neanche un picco nel ritmo cardiaco, sarebbe stato quasi impossibile. Rimase congelata nella sala grande mentre lo realizzava. I giorni si fusero in una nebbia di paura. Vennero addestrate. La Umbridge teneva in mano quella che sembrava una piccola lanterna e dava un'istruzione. Quando finiva di parlare, la lanterna si illuminava leggermente e le manette si riscaldavano mentre la magia entrava in circolo. Inculcarono compulsioni nelle loro menti. Lo fecero gradualmente. Sembrava che ogni istruzione avesse bisogno di tempo per radicarsi nella loro psiche, per plasmare il loro comportamento. Rimarrete tranquille. Sarete obbedienti. Non farete male a nessuno. Non offenderete le mogli. Non farete resistenza quando sarete a letto. Dopo esservi accoppiate, non vi muoverete per 10 minuti. Farete di tutto per rimanere incinte rapidamente e produrre bambini sani. Non farete sesso con nessun uomo se non con quello designato. Col passare dei giorni, Hermione riusciva a vedere l'effetto delle istruzioni sulle altre donne. Diventavano sempre più silenziose. Nei primi giorni, qualcuna sussurrava sommessamente di notte. Già al terzo le stanze erano per lo più silenziose, a parte qualche singhiozzo soffocato. Lei era tenuta leggermente in disparte da tutte le altre. C'era sempre una guardia al suo fianco. La Umbridge le rimase lontana, anche se i suoi occhi lampeggiavano verso di lei in trionfo ogni volta che le veniva apposta una nuova compulsione. Qualunque fosse la magia nera usata per attivare l'incantesimo, era delicata. Ad ogni nuova istruzione i guaritori arrivavano e le controllavano. Un giorno una delle ragazze perse improvvisamente la testa e si alzò in piedi urlando. Afferrò la sua sedia e la sollevò in aria prima di abbassarla sulla donna accanto a lei. Quando le guardie la schiantarono e la trascinarono via, la spalla della donna era in frantumi. Forse erano previste ulteriori compulsioni, ma dopo quell'evento la guaritrice Stroud decise che ciò che era stato inculcato loro era sufficiente. Hermione giaceva nel buio ogni notte e tremava. Se non fosse riuscita a scappare, la sua migliore speranza sarebbe stata quella di morire sotto la bacchetta dell'Irive. Lui era, da quello che aveva potuto capire, piuttosto incline ad uccidere. Se fosse riuscita a provocarlo, ad agire senza pensare, forse avrebbe potuto ucciderla prima di riuscire a trattenersi. E se ci fosse riuscita, Voldemort avrebbe poi potuto uccidere l'Irive, rendendo il mondo un posto di gran lunga migliore. Avrebbe dovuto fare in fretta, essere intelligente. Se era un Legilimens così bravo come sosteneva Piton, le avrebbe visto quell'intenzione nella mente. Ma forse non avrebbe avuto importanza. Qualcuno così pieno di odio, probabilmente era molto più impulsivo che ragionevole. Poteva usare la cosa a suo vantaggio e tirare un cappio intorno al collo di entrambi. «Spogliatevi!» disse la Umbridge alcuni giorni dopo. Non era sicura se fu la costrizione o semplicemente l'inutilità di opporre resistenza a farlo obbedire, probabilmente entrambe le cose. Insieme alle altre si sbottonò il vestito grigio scialbo e tolse gli indumenti intimi. Rimasero in piedi a rabbrividire nella stanza fredda. Erano in 72. 20 erano state escluse dalla guaritrice Stroud per paura che impazzissero come aveva fatto la ragazza che urlava. Erano del tutto nude, tranne per le manette di rame lucente ai loro polsi, ripiegate su se stesse per nascondere i loro corpi dagli sguardi delle guardie. «Mettetevi questi!» Con un movimento del polso, la Umbridge fece apparire un grande mucchio di vestiti, abiti e mantelli scarlatti, rossi come il sangue. Nessun indumento intimo. Era abbastanza magra da non sentire la mancanza di reggiseno, ma la cosa la colpì come se avesse toccato un nervo scoperto. «E queste per il freddo invernale?» continuò lei sorridendo mentre faceva apparire un'altra pila di vestiti, calze di lana fino alla coscia. Poi aggiunse una pila di cuffiette bianche e scarpe scarlatte con la suola piatta. Hermione si mise tutto addosso, la cuffia per ultima. Le alette le bloccavano quasi completamente la visione periferica. Le soffocavano l'udito. Poteva solo guardare davanti a sé. Se voleva guardare qualcosa, a sinistra o a destra, doveva girare la testa rendendolo evidente. Era stato tutto accuratamente creato per generare vulnerabilità. Vedevano a malapena, sentivano a malapena, non potevano resistere, non potevano rifiutarsi, non potevano scappare. Il loro benessere sarebbe dipeso interamente dall'affezionarsi a chi le possedeva, perciò dovevano essere mansuete. «Se lasciate la casa a cui siete state assegnate, siete obbligate a indossare le cuffiette. Nessuno deve guardarvi!» comandò la Umbridge. «Questa è la fine del mio addestramento per voi. Non vedo l'ora di vedere nascere i bambini!» I suoi occhi erano puntati sul viso di Hermione. L'odio in essi era così denso che poteva quasi sentirlo vitrificarsi sulla pelle. Le fece un sorriso freddo e allegro, poi si voltò e se ne andò. Qualcuno le sfiorò il braccio, qualcuno così vicino che anche girandosi non riusciva a vedere chi fosse, con le alette che la intralciavano. «Mi dispiace tanto», sussurrò la voce di Angelina. Era rotta, come se stesse reprimendo un singhiozzo. «Avevi ragione, avremmo dovuto ascoltarti». Aprì la bocca per chiedere ad Angelina cosa intendesse, ma prima che riuscisse a far uscire la domanda, una mano forte si chiuse intorno al suo braccio. Si ritrovò ad essere trascinata in una piccola stanza. La guaritrice Stroud sedeva dietro una scrivania piena di scartoffie. Aveva una cartella aperta davanti a sé, che sembrava contenere un calendario. Le caselle erano piene di spunte. Hermione si accorse che era la metà di novembre del 2004. Non si era resa conto della data fino a quel momento. «Signorina Granger», disse alzando lo sguardo, «sono molto contenta di essere riuscita a tenerti nel programma». Lei non disse nulla. Fissò legnosamente la donna. «Mi rendo conto che non l'hai voluto tu, ma dato il lato che hai scelto in guerra, sicuramente ti fa piacere che le tue capacità magiche ti siano state riconosciute». La guaritrice la studiò, gli occhi luminosi e l'espressione stranamente calda. «Non ci saranno più le sacre 28 dopo questo. Le generazioni future saranno semplicemente magiche. Sono certa che riesci a vederne il vantaggio». Hermione rimase lì, meravigliandosi internamente della logica contorta che la donna davanti a lei impiegava per ripulirsi la coscienza. Le ci vollero diversi secondi per rendersi conto che una risposta era d'obbligo, a giudicare dall'espressione della Stroud, attesa addirittura. «Mi sta mandando a farmi violentare e vuole che ne veda il vantaggio», disse infine, inarcando le sopracciglia. Gli occhi della guaritrice Stroud lampeggiarono brevemente e si raffreddarono. Non sono responsabile di tutte le decisioni riguardanti la tua sicurezza. Potrebbe sorprenderti sentirlo, ma mi interessa la tua salute e felicità. E se fossi sterile? Hermione abbassò lo sguardo e studiò il calendario capovolto, cercando di leggere i numeri e accertarsi della data esatta. La carta bianca le confondeva la vista e le faceva male agli occhi. La guaritrice Stroud alzò gli occhi e sospirò. Chiaramente non si può ragionare con te. Sei ancora troppo emotiva su tutto. Forse un giorno una strega con la tua intelligenza arriverà ad apprezzare quello che sto cercando di fare. Hermione non disse nulla. Strizzò gli occhi e cercò di leggere di nuovo il calendario. Contorse le dita. La guaritrice Stroud lasciò cadere una cartella sopra il calendario e si alzò. Lei alzò lo sguardo. Il signor oscuro non vede l'ora che tu sia sotto la supervisione di qualcuno in grado di monitorare i tuoi ricordi. Avevo chiesto una proroga per vedere come l'addestramento influisse su di te, ma raggiungerai la tua finestra di fertilità tra pochi giorni. Il signor oscuro ti vuole incinta il prima possibile. Ti avrei aiutato a prepararti fisicamente, ma sembra che tu non voglia. Lyriv è sposato. Sono sicura che sa cosa fare e non gli dispiacerà addestrarti a suo piacimento. Fece un sorriso freddo e ostile che la fece trasalire. Lo stomaco le si contorse. La Stroud allungò la mano in un cassetto e tirò fuori una borsetta. Questa ti porterà alla tenuta dell'Lyriv. Ti stanno aspettando. Si allungò verso Hermione. Lei indietreggiò di un passo, abbassò il mento e cercò di respirare. Aveva solo bisogno di un momento per trovare la forza, per prepararsi a quello che stava per affrontare e a quello che stava per fare. «Apri la mano», disse la guaritrice mentre girava intorno alla scrivania, verso di lei. Il cuore le batté dolorosamente nel petto mentre si mordeva il labbro e cercava di inghiottire il terrore che saliva in lei come una marea. Indifesa. Inerme, obbediente. Sarete obbedienti. Cominciò a sollevare la mano. Una moneta le cadde sul palmo e immediatamente sentì uno strattone dietro l'ombelico mentre veniva risucchiata via.